ascoltarlo in quello che fai. Un po' alla volta lo conquisterai. Se la paura ti soffoca, tu superarla potrai. Farai ricorso all'astuzia che hai e coraggiosa tu diventerai. Felice sarai se ci proverai, soltanto se tu lo vorrai, perché porti in te il meglio che c'è. Sei unico, diverso è. Il mondo è dentro di te. Tu lo vorrai, perché porti in te il meglio che c'è. Sei unico, diverso e il mondo è dentro di te. Felice sarai se ci proverai, soltanto se tu lo buono già c'è. Insieme più forti si è. Insieme più forti si è.